A tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Tutto si può dire di Inter-Tottenham, ma non che non sia stata divertente per l'Inter, che alla fine ha vinto. Soprattutto per Bale, questo esterno del Tottenham che ha stabilito un record, perché io credo che 3 gol in mezz'ora a San Siro, nello stesso angolo di porta, non li avesse ancora segnati nessuno. A divertirsi bene sono stati in due. Uno è Stankovic. Leggo la prognosi. Dopo la risonanza magnetica di stamane, stiramento dei flessori profondi del piede a livello del polpaccio destro. Morale, tenteranno il recupero per il ritorno a Tottenham a Londra del 2 novembre, ma non è detto. L'altro, che non si è divertito tantissimo a parer mio, è Carlo Cudicini, perché insomma già non è mai bello star fuori, ma entrare all'improvviso per provare a parare un rigore e poi prendere altri 2 gol in mezz'ora non credo sia esattamente il sogno di un portiere. Che cosa ne dice il babbo Fabio Cudicini? Gigi, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci diamo del lei, va. Diamoci del lei. Allora, senti, è stata una sorpresa ovviamente per noi, dico noi parenti. Sì, voi di famiglia. Quindi abbiamo capito subito che non era proprio il momento più opportuno, no? A parte il calcio di rigore, ma l'Inter stava manifestando una grossa preponderanza tecnica, sì. Tattica, ci aveva praticamente messo, io dico sì, perché insomma in quel momento facevo parte del Tottenham e quindi abbiamo capito la situazione problematica che si prospettava e abbiamo sperato che non si trasformasse il tutto in una tragedia, cioè in una derrota completa con 6-7 gol, perché l'andazzo dei primi 20 minuti era su quella falsa riga. Certamente sì. E quindi siamo tutti contenti che è andata a finire così, perché perdere praticamente 1-0 per la differenza reti, che tu sai che in quei gironi di Champions, in questi gironi di Champions, conta molto se arrivi a pari merito, con la pari poi delle altre due avversarie di classifica, tutto sommato questa sconfitta che assumeva proporzioni, stava per assumere proporzioni gigantesche, invece ci è andata ancora bene. Sì, sì, sì, perché alla fine grazie anche a tutto. Senti, ma Carlo come sta? Fortissimo, dimmi, scusa. No, sto chiedendo come sta Carlo, come sta tuo figlio? Carlo sta bene. Sta bene, perché poi si ha recuperato in pieno, no, dall'incidente. Recuperato in pieno, sì, sì. No, per quello tutto a posto. Certamente, come ho detto prima, l'entrata non era proprio molto favorevole in quel momento. Però devo aggiungere, così da genitori, che poi io tra l'altro avevo anche il mio 75esimo compleanno da come ricordare. No, stavo arrivandoci. Il più bel regalo che Carlo ci abbia potuto fare, perché dopo l'incidente pesantissimo del novembre scorso pensavamo che col calcio avesse chiuso. E quindi è stato un bellissimo regalo vederlo proprio a San Siro, caso strano, ma comunque una coincidenza che ci ha fatto molto ma molto piacere. Proprio sotto i tuoi occhi. Allora, pensa alle combinazioni. Ieri avevamo trovato 2 o 3 volte il tuo numero occupato, perché ci sarebbe piaciuto farti gli auguri per i tuoi 75 anni, anche perché portare 75 anni come li porti tu, lo dico perché ci siamo visti di recente, credo sia un primato. Ti difendi e come, vecchio ragno nero. Senti un po', ho letto un'autocritica molto serrata di Julio Cesar, che dice, a proposito di 3 gol di Bale, dice: ho dormito sul primo gol, il secondo anche era evitabile, il terzo no, quello di stasera è mio fratello, non sono di certo io, è stata una partita, e poi dice una parolaccia, basta così. Una dichiarazione che mi ha abbastanza sorpreso e soprattutto mi aumenta nelle mie considerazioni la stima per l'uomo, perché non è facile, soprattutto nel caso di un portiere, anche se la partita è stata vinta, quindi un attimino di più serenità poteva averla, a parte che lui diceva che era arrabbiatissimo, poi aveva il suo direttore tecnico brasiliano, il suo selezionatore in tribuna, per cui lo capisco benissimo, ma lo apprezzo, anche se conoscendo Bay da 1 anno e mezzo, perché ovviamente Carlo quando c'è qualche buon giocatore mi racconta subito le prodezze che fa questo ragazzo, no, perché sai, lui lo vede tutti i giorni in allenamento, no? Quindi per lui non è una grossa novità. Io, come tutti gli altri, credo, vedendolo da fuori, ho apprezzato, al di là della velocità di partenza, del salto, della continuità nel controllare la palla, anche il terzo e l'ultimo gol contro Cordoba, che era senza palla ma non l'ha preso, e la lucidità che una volta affacciatosi nell'area ha avuto sempre, dico sempre, unita alla potenza per indovinare o comunque collocare, non lo so, perché qui è difficile dire che l'ha voluta sempre metter lì, perché l'ha messa sempre sul palo di ferro alla sinistra di Julio Cesar, che, tornando all'argomento iniziale, alla domanda iniziale, io l'ho visto su due di quei tre tiri leggermente col peso sulla gamba destra, quindi con molta difficoltà, quasi impossibile, a ribaltare immediatamente la situazione della posizione per poter intercettare il tiro. Quindi io non gli darei tanta colpa, perché conoscendo Bale e conoscendo soprattutto la precisione che io ho notato anche qualche volta che sono andato a vedere gli allenamenti del Tosta quando vado a Londra, e per lui lo dico sia una cosa normale, perché è normale per nessuno fare tre gol in quella maniera in poco tempo, però è uno che la mette spessissimo dentro così. Come vedi, tu hai detto tre parole, hai detto aveva il peso sulla gamba destra, un leggero spostamento sui primi due tiri, sul secondo gol, leggermente, diciamo, appoggiandosi come se volesse coprire il primo palo, cosa che evidentemente gli è stata fatale. Però bisogna ammirare l'autocritica, è veramente una grossa persona. Fabio, se io ti chiedessi, come ogni tanto accade, di stare per un minuto a ascoltare aggiornamenti di traffico e poi scambiassimo due opinioni sul Milan? Volentieri. Molto bene, grazie. Allora, Agi, e nel frattempo il nuovo allenatore a Galatasaray al posto di Frank Rijkaard, notizia appena uscita in questo istante dalle agenzie. Noi sentiamo come va su strade e autostrade. Torniamo in compagnia di Fabio Curicini. Dunque, il Tottenham ieri sera ha dovuto far ricorso dopo 10 minuti al suo secondo portiere, e cioè al figlio Carlo. Anche il Milan ha dovuto giocare con il secondo portiere al Bernabeu contro il Real Madrid, e mi pare che Amelia, così come Carlo ieri sera, se la sia cavata al di là del risultato. Direi meglio Amelia di Carlo, che a parte che non ti senta, eccetera, più o meno difficili, eccetera, che per il momento esentami, scusa, dal commento, ma Amelia devo dire che è stato non bravo, bravissimo, perché anche lui in un esordio in Coppa dei Campioni, anche se è partito al primo minuto, quindi sufficientemente riscaldato, preparato, nella tensione giusta, eccetera, però si è dimostrato molto sicuro, e quindi ha passato, chiamiamolo l'esame, anche se lui è un esperto addirittura di nazionali, quindi l'ha passato molto molto bene. I guai sono venuti purtroppo un po' più ecco, parliamo di quei guai lì. Non vedendo, io penso ogni tanto a voi della vecchia guardia del Milan storico, di un Milan di tanti anni fa, ma insomma di un Milan che schierava i suoi 3-4 attaccanti, perché Amrin, perché Sormani, perché Prati, Rivera subito dietro e prima ancora altri, ma che però insomma almeno i mediani no, erano, non dico dei medianacci, ma insomma anzi avevano anche i piedi, se erano Foglio, se erano lo stesso Trapattoni, però insomma la squadra aveva un equilibrio che adesso ad alto livello si fa fatica a ritrovare. È una sensazione che provi tu? Sì, io penso che Allegri sta lavorando la squadra, anche se ha dimostrato nelle ultime partite, ma però in Italia ha dimostrato di aver raggiunto un certo equilibrio, o perlomeno una struttura e un'organizzazione di squadra dopo le difficoltà iniziali con i tre attaccanti, eccetera, eccetera, eccetera, gli infortuni, come sappiamo, di Pato. A Madrid ha giocato molto, chiaramente l'assenza, anche se Bonera ha fatto del suo meglio, ma Thiago Silva è una cosa, penso che Bonera sia un'altra. Ma comunque, al di là di questo, purtroppo si è venuto a mancare completamente, e non si sa se per per colpa propria o per mancata assistenza del centrocampo, i cosiddetti trio stellare, chiamiamolo così, lo chiamano tutti così. Quindi questo è un lavoro, sarà una mia impressione, però io credo che soprattutto Ronaldinho messo dietro alle punte, con Seedorf e con Pirlo, la coesione e la concomitanza dell'impiego sia un po' problematica. Poi per avere un rendimento non solo, ripeto, per il campionato italiano, che soprattutto le partite in casa può anche andare, può essere anche giustificata, sì, eccetera, ma quando si incontrano come nelle coppe delle squadre ostiche, ma non dico solamente di quelle di primo pelo come Arsenal, Manchester e Madrid stesso, ma anche squadre così che abbiamo nel girone e che con la loro corsa, la loro cattiveria tra virgolette eccetera, ci possono mettere in difficoltà anche sul piano della dinamica, ecco. Certo. E questo credo che, leggendo qualche mezza pagina di oggi proprio sui vari giornali sportivi, mi sembra che Allegri abbia già toccato il tasto, insomma, sì, vedendo di fare qualche eventuale accorgimento, ecco. E questa, una volta trovata sta quadratura, siccome gli uomini e le loro carature tecnico tattiche eccetera, di esperienza, cioè, ci sono, probabilmente sarà logico forse alternarli, non tenerli tutti in campo quelli che, perché hanno il nome e che dovrebbero giocare sempre, secondo me dovrebbero giocare nei momenti giusti con opportune, certo, e sensate alternanze che dovrebbero senza dubbio far quadrare meglio i conti. Mentre Fabio Curicini parlava e realizzava questa analisi sul centrocampo, insomma sugli equilibri del Milan, l'agenzia che arriva da Milano è la seguente: Ronaldinho ha saltato l'allenamento di stamane per un sovraccarico tendino alla coscia destra ed è a rischio per la trasferta di lunedì sera a Napoli, trasferta a cui difficilmente parteciperanno anche Ambrosini e Thiago Silva, che non hanno ancora recuperato dei loro acciacchi, leggo sempre l'agenzia, a differenza di Abbiati che si è allenato regolarmente. Fabio, io ho l'impressione in chiusura che se non conosco male il regolamento, ma non credo proprio, Gomez espulso ieri sera vuol dire Gomez squalificato per la prossima partita di Champions, che vuol dire per te una trasferta il 2 novembre a Londra a vedere tuo figlio in porta dal primo minuto. Su questo non c'è dubbio, ecco. Io sono anche contento perché opportunamente preparato prima della partita con la tensione giusta eccetera, sicuramente potrà fare anche più bella figura, ma visto che appunto, come dicevamo prima, si è ristabilito ed è anche in discrete condizioni di forma. Però un appunto, una perplessità sul fatto che il comportamento dell'arbitro, se tu hai fatto caso, aveva ammonito col rosso prima il terzino, sì, poi dopo col giudice di porta che l'ha richiamato all'attenzione dicendo che era stato il portiere a fare il fallo, quel rosso che aveva in mano lui già per il terzino non si sia sentito di rimetterlo in tasca ed estrarre un giallo, perché al quarto minuto un fallo sì, un rigore sì, ma anche privare la squadra di un portiere, forse se non avesse pensato al fallo del terzino si sarebbe un attimino, si sarebbe forse limitato al giallo per il portiere. Questo se scritto sul rapporto, quanto può pesare naturalmente in fase di un eventuale reclamo eccetera eccetera da parte del che per, è un, la tua è una buona riflessione, io non credo che ci sarà, però non lo so. Gioca Carlo 2 novembre, dai, a me fa solo piacere, lo credo, un altro bene. Regalo in più da aggiungere alla collana di tutti quelli fattici durante i suoi anni notevoli, certo, di carriera inglese, soprattutto perché ormai sono 12, ma anche qualche cosina in Italia, certo. Un abbraccio al Ragno Nero, Fabio Curicini. Grazie a te di averti sentito e di avermi chiamato. Ciao caro, ciao. Saluti ai cari ascoltatori. Grazie, a presto Fabio Curicini. Altro che moviola e ore di discussioni inutili, scrive Diego. Peso sulla gamba destra. Queste sono tre parole, peso, quattro, peso sulla gamba destra. No, grazie Diego per aver colto questo, no, questa chicca, che poi è la chicca della semplicità, ma è la chicca del pallone, che è la chicca da non confondere con la fuffa. A proposito, Marco ha chiamato la Varese, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Sul Dica. Milan, sì. Io ho questa impressione, non so, la condivido con lei, che il problema del Milan a me sembra la fase difensiva, cioè adesso ho sentito dire che i tre, il super tiro non ha funzionato eccetera, però io adesso guardando per esempio la partita col Chievo e poi anche con il Real Madrid, a me dà l'impressione di un pericolo costante, cioè la fase difensiva non sia a posto per qualche motivo. Il dottor Genta ha detto una cosa che condivido, ha detto il Milan dà l'impressione di essere una donna che cammina su tacchi altissimi e che può cadere da un momento all'altro. A me sembra che sia questo il problema, e secondo me se nessuno prende coscienza di questo il Milan non vincerà, perché il Milan di Capello e anche quello di Sacchi era di ferro. Milan di Capello e di Sacchi avevano un'altra, no? Un'altra struttura, un'altra costruzione nel tempo, altri giocatori, un'altra filosofia, non certamente l'improvvisazione di queste ultime stagioni. Quindi io credo che il paragone sia abbastanza. Insomma, sia poco rispettoso dei giocatori che ci sono adesso che appunto arrivano per vie un pochino più improvvisate, insomma, no? Se ricordi la vicenda Beckham, credo che sia un po' il paradigma di tutti questi ultimi anni milanisti. Dunque, qualche curiosità di Coppa, anche se poi la affrontiamo più dettagliatamente più avanti con Fabio Tavelli nel riassunto delle due giornate, ma la principale è che Raul è arrivato a 69 gol in Europa e quindi ha scavalcato, perché la classifica fino a ieri sera era Gerd Müller 69, Inzaghi 68 e Raul 67. Ora, con tutte le differenze cronologiche, con le difficoltà che le coppe in più avevano una volta, con un numero di partite giocate diverso, ma insomma in ogni caso era questo. Ieri sera Raul ha segnato una doppietta con lo Schalke 04, i suoi primi gol con la maglia di questa squadra tedesca dopo il trasferimento dal Real Madrid, e questa doppietta l'ha portato a eguagliare Gerd Müller in testa alla classifica dei cannonieri europei di tutti i tempi. Vi ricordo anche che stasera tocca all'Europa League, e allora cominciamo a sentire qualche vigilia delle squadre impegnate, per esempio la vigilia di Napoli-Liverpool, e sentiamo Dossena. Affrontiamo questa partita consapevoli della nostra forza, delle nostre qualità, sempre rispettando il Liverpool in quale potenza mondiale quale è. Per quanto mi riguarda, sì, è una partita particolare, non ho lasciato granché segno. Adesso che, grazie a mister Mazzari, grazie alla squadra, sto tornando su dei buoni livelli, ci tengo a far bene e a far vedere quello che potevo dare. Brutta vigilia però a Napoli, perché stanotte ci sono state due aggressioni contro dei tifosi del Liverpool. In un primo episodio intorno all'1 in corso Umberto, una decina di teppisti armati di bastoni e almeno un coltello hanno aggredito e ferito due inglesi di Liverpool, due signori di 44 e 53 anni giudicati guaribili in 10 giorni per ferite lacero contuse eccetera. Poi più tardi un proprietario di un locale si è accorto che un gruppo di teppisti del Napoli vanno ad assaltare un gruppo di tifosi di supporto del Liverpool. È intervenuto per calmare gli animi, ma i teppisti, insomma, ha risparmiato le botte agli inglesi, ma i teppisti hanno aggredito lui, gli hanno ferito un occhio. La polizia sta ovviamente indagando e sta prendendo ulteriori provvedimenti restrittivi in vista della partita di stasera. Intervallo, mercati. Un ascoltatore è già collegato con noi, e poi un bilancio di questo terzo turno di Champions League e la vigilia di Europa League. Gianluca da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Un paio di considerazioni. La prima considerazione è che rimango sempre impressionato in modo positivo quando lei invita questi ospiti come Cudicini, come Gigi Simoni, Bagnoli, e tanti altri che hanno una pacatezza a esporre le proprie impressioni e vanno in contrasto con l'ultima notizia che lei ha dato di Napoli, no? E in due parole, quello che mi ha impressionato il ragno nero, che in due parole ha detto quali sono stati gli errori del portiere del Lido, di Rosero, cioè peso sulla gamba destra, no? Al di là di tutte le moviole che ci possono essere, certo, l'uomo di calcio, cioè, ne sa sempre più della tecnologia. Un'altra considerazione è questa sul settore giovanile, velocemente. Io ho un figlio che è un 1991, ha fatto 10 anni di Parma, ha giocato nella nazionale nel 19 l'anno scorso con Santon, destro e quant'altro, e adesso è in C1, e c'è veramente un abisso tra la primavera di una squadra di Serie A e un campionato di Serie C1, e quindi ritengo che l'idea eventualmente di Sacchi, mi sembra di aver capito, di creare un ex De Martino potrebbe essere la panacea per il nostro calcio. La ringrazio e l'ascolto la sua risposta. Grazie a lei Gianluca, non so se la panacea, comunque una riflessione da fare e probabilmente un progetto da coltivare e poi da provare effettivamente a realizzare. Torniamo in Europa con Fabio Tavelli. Fabio, buongiorno. Buongiorno a te Gigi, buongiorno a tutti. Senti, facciamo qualche numero giusto così la sintesi. Intanto uno abbastanza impressionante. Nel primo turno, la prima doppia giornata, 44 gol. Nella seconda 42, ieri l'altro 43. Cioè, ma si passano parola questi oppure? No, perché è strano. No, è vero, poi ci sono squadre che contribuiscono di più e altre contribuiscono di meno, difese un po' più ballerine di altre. Ad esempio, insomma, quando l'Arsenal gioca, spesso ne fa quando l'Arsenal gioca in casa ne fa parecchi. Se tu pensi che la prima giornata ne ha fatti 6 al Braga e l'altra sera ne ha fatti 5 allo Shakhtar, certo. Cioè, l'Arsenal, no, ma... ti interrompo un istante, l'Arsenal come squadra, come girone invece quello dell'Inter, dunque ha segnato 25 gol fino a ora, che è 9 gol in più rispetto alla media generale degli altri, e quindi sì, insomma, è lo spettacolo è qua, insomma. Sì, lo spettacolo, poi intendiamoci, un 4-3 può nascere in mille modi, e un 4-0 e un 0-3 può avere un tasso di spettacolarità diverso, però effettivamente è vero, perché nel gruppo A la partita più povera di reti è stata quella tra Twente e Werder, che è finita 1-1, ma poi insomma, esatto, abbiamo tre partite nelle quali la squadra di casa ne ha fatti 4, cioè l'Inter ne ha fatti 4 al Werder e 4 al Tottenham, e il Tottenham ne ha fatti 4 al Twente, quindi è vero che questo è un girone dove... Però è anche vero che insomma, se gli attacchi segnano tanto è perché forse le difese ballano un po' troppo. Infatti, ieri onestamente qualche errore grave si è visto. Insomma. Certo, infatti ieri qualche errore grave sì c'è stato, si è visto, ma si è visto anche a San Siro, io direi. Ma niente di paragonabile a quello che la difesa del Cluj ACP che si chiama ha combinato a Monaco di Baviera, perché dicevo ieri, quella non è Champions League, quello è Giochi senza frontiere, mi pare, no? Sì, ha creato anche un po' di imbarazzo, e devo dire che la squadra romena, che è perfettamente in corsa per il passaggio del turno, perché in quel girone, nel girone della Roma, dopo tre giornate, cioè dunque dopo la prima boa, ci sono tre squadre a tre punti. È vero che insomma se la difesa romena è questa, credo che sia già una buona notizia per la Roma, che dovrà giocare contro il Cluj comunque in trasferta l'8 dicembre, l'ultima giornata, con il sospetto che insomma se la Roma non ricomincia subito a mettersi in riga, anche perché la prossima partita sarà a Basilea, quindi contro un avversario che le misure alla Roma le ha già prese perfettamente, insomma la Roma quella partita lì potrebbe essere anche costretta a vincerla, e magari anche largamente, perché la differenza reti in questo momento è negativa sia per la Roma nettamente, perché a questo punto quando troppe squadre sono a pari punti bisogna cominciare a guardare anche la differenza reti, e la differenza reti per la Roma dice meno 3, e quindi insomma, ripeto, se la Roma non fa due grandi partite contro Basilea e Bayern di Monaco potrebbe essere costretta ad andare in Romania non solo con l'obbligo di vincere, ma con l'obbligo di vincere anche un po' largamente, con tutti i rischi, gli annessi e connessi. Resta da capire che tipo di Roma avremo a dicembre, perché davvero sembra incredibile, perché se facessimo un piccolo salto all'indietro, e non è moltissimo, cioè se torniamo indietro esattamente a un anno fa, quando Ranieri stava cominciando a ricostruire più psicologicamente che altro la Roma, Ranieri già passava per un semigenio, e poi diventato un dio pagano alla fine del campionato scorso, e adesso si ricomincia a leggere di Leonardo, di una squadra che è spaccata, di tutta una serie di cose. francamente denotano come la maggiore età e dunque la maturità nel nostro calcio sia sempre un traguardo che viene spostato ogni volta più in là, un pochino più in là. Ottima riflessione. Raccontavo prima di Raul, che è arrivato a 69 gol, sì, quindi ha raggiunto Gerd Müller, ha staccato momentaneamente Inzaghi. Ieri sera Messi ha segnato il 150esimo e il 151esimo gol in carriera tra Barcellona e Nazionale. Per uno che ha 23 anni sono tanti, è 150. Sì, sono tanti e devo dirti anche che sono molto superiori e molto più pesanti quelli che fa col Barcellona rispetto a quelli che fa con l'Argentina. Torniamo a un vecchio discorso. Messi è un giocatore che non ha paragoni in questo momento, e se c'è un paragone c'è con un altro che ha smesso di fare il commissario tecnico dell'Argentina. È anche vero che poi i gol secondo me si dovrebbero pesare più che contare, anche se poi quando arriviamo al peso diventa un'unità di misura complessa, perché è abbastanza bizzarro e curioso che Raul il record l'abbia fatto non con la maglia del Real Madrid, visto che al 99,9% i gol li ha portati a casa con il Real Madrid, li faccia in una squadra tedesca, tra l'altro in una squadra in grave difficoltà, è una grande del campionato tedesco, ma è una squadra che in campionato fa moltissima fatica, e quindi ripeto, i record con queste formule a gironi sia in Europa League che in Champions League diventano anche più facili, fermo restando che il cappello va tirato giù di fronte a ogni gol che fa Leo Messi e ogni gol che fa Raul. Il primo ieri sera strepitoso, perché per una volta, anziché cercare il passaggio in porta anche da fuori area come fa lui, no? Che cerca sempre di metterla, ieri sera l'ha messa lì lo stesso, però ha lasciato andare il piede, era una sassata strepitosa. Mi fa notare Franco Piantanida questa riflessione. Allora, Eto'o ha segnato 14 gol fino adesso in stagione. Benitez ha detto: da lui ne voglio 30 quest'anno, e quindi questo vuol dire che a fine novembre smette di segnare Eto'o. Però sa che dovrà chiedergliene un po' di più se mi litono. Massimo Natale, insomma, no? Sì. Sì, però lui ha detto quest'anno, io non so se lo voglia finire al 31-12. Anno solare, allora, intendevo. Forse era meglio precisare. Detto questo, insomma, quando l'anno scorso si sentiva dire che tutto sommato questo Eto'o non era questa grande cosa, che insomma l'Inter si era privata di un giocatore come Ibrahimovic che in campionato spacca tutto e tutti, e poi in Champions invece balbetta come si è rivisto purtroppo a Madrid, probabilmente chi diceva questo erano persone che non vedevano la Liga o non vedevano tanto la Champions League, a parte le squadre che venivano seguite, le parti, sì. Perché insomma, chi ha visto un minimo Eto'o negli ultimi 5, 6, 7 anni non poteva pensare che quello dell'anno scorso fosse un Eto'o a dimensione standard. L'anno scorso credo che Eto'o abbia anche dimostrato di essere superiore a quello che è normalmente, perché se normalmente lo conosciamo come realizzatore, e lui ha 2-3 dimensioni di realizzazione di gol, perché è comunque un attaccante che sa fare gol in molti modi, l'anno scorso ha dimostrato anche di essere un giocatore completo, perché ha potuto anche far vedere di essere capace in ruoli non suoi. Quest'anno, che insomma Benitez lo ha riportato alla sua naturale attitudine, è tornato a fare quello che ha sempre fatto, e quindi a noi sinceramente Eto'o che faccia tanti gol non stupisce per niente. Ultima riflessione, le squadre che hanno vinto 3 partite su 3 finora, cioè che sono a punteggio pieno nei gironi e quindi praticamente già qualificati, anche se non aritmeticamente, sono Real Madrid, Bayern, Lione, Arsenal e Chelsea. È qui che dobbiamo guardare per trovare la favorita, oppure anche chi come l'Inter o come il Barça è a quota 7 fa parte a pieno titolo di questa pattuglia? Guarda, dire che Inter e Barça non possono considerarsi favorite No, naturalmente mi pare di no. Mi pare di no. No, la riflessione mia è invece sul doppio confronto, nel senso che in queste due giornate abbiamo visto chiaramente quale sia la differenza tra il doppio confronto e le partite dei gironi. Cioè, se l'Inter avesse vinto una partita 4-3 da andata e ritorno, ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli. Avendola vinta in un girone, è francamente la stessa cosa, cioè è molto preferibile, nel senso che comunque ha fatto i suoi 3 punti, la differenza reti è comunque positiva, anche se nella casellina dei gol subiti adesso siamo a 5, però rimane a più 5. Ripeto, preso un 4-3 come quello di ieri sera, se fossimo in una gara dentro fuori ci sarebbe molto da preoccuparsi, e invece quello che è successo ieri denota una grande tranquillità comunque da parte dell'Inter, che può permettersi anche di uscire mentalmente da un match. No, mi sembra che le grandi favorite non stiano steccando, mi pare di poter dire che non ci sia una squadra, se non il Valencia, in questo momento tra le cosiddette teste di serie, oltre naturalmente anche alla Roma, perché il vero dato di queste prime tre giornate è la Roma al quarto posto del suo girone. Il Valencia ieri ha pareggiato una partita in maniera quasi miracolosa contro i Rangers, altrimenti forse staremmo già intonando le campane, e campane morto perché i Rangers sarebbero due punti avanti, quindi certo, sarebbero quota 7, e quindi direi che per il momento rimane tutto abbastanza normale. Alla prossima settimana, Fabio, grazie. A quando vuoi, Gigi, grazie, saluti a tutti. Chiuso anche questo collegamento, spazio all'Europa League e ai vostri interventi nell'ultima parte del programma, dopo aver sentito come va sulle strade. Il programma completo dell'Europa League di stasera, per quanto attiene alle italiane, perché sennò il numero di partite è esterminato. Allora, alle 19 il Napoli gioca con il Liverpool, alla stessa ora a Kharkiv la Sampdoria sul campo del Metalist, il Palermo riceve il CSKA di Mosca alle 21.05 e la Juventus gioca a Salisburgo alla stessa ora. Un'altra vigilia di queste squadre, per esempio quella di un austriaco come Manninger, che torna a giocare in patria a Salisburgo. Sono una squadra molto organizzata, un staff tecnico, una società fortissima. Magari sono un po' indietro ora con i risultati perché sono partiti male quest'anno, sinceramente, però vuol dire alla giornata loro ci sono sicuro, perché è una partita molto importante anche per loro, lo stadio, lo staff, la società punta tanto sull'Europa, perciò sarà difficilissimo perché la squadra hanno sicuro. Manninger giocherà, così come giocheranno un po' di seconde linee della Juventus, come Motta per esempio, come le Grottaglie, come Martinez, come Pepe, che ormai è diventato una seconda linea, e come Sissoko. C'è in linea Maurizio da Milano, buongiorno. Scusa se non parlo della Juve ma del Milan. Niente, buongiorno, volevo dire, io vado allo stadio tutte le domeniche, vado a vedere il Milan, vedo il movimento dei giocatori allo stadio, no? Che invece dalla televisione non si riesce a capire veramente bene come si muovono. Ecco, io volevo capire, secondo lei, Seedorf cosa c'entra con il gioco che sta facendo adesso il Milan? Perché è un conto giocare con tre punte e con tre che in centrocampo che comunque coprono, ma lui non copre, non fa niente in pratica, sembra uno spettatore in campo. Lei cosa ne pensa? Non lo so, voglio mettergli la macchina fotografica tra colla, che così almeno, non so, almeno ha una funzione. Seedorf che scatta le fotografie in campo, no? e che fa fatica però per esempio a inquadrare Ronaldinho, tanto è veloce, no? o qualcun altro, o Pato, tanto è aggressivo nell'attaccare l'avversario quando è in possesso di palla. So, evidentemente è il momento di Seedorf che ha 34 anni suonati e indubbiamente credo che chiunque possa distinguere a occhio nudo che non è più il Seedorf di qualche anno fa. Fate una petizione, dato che qua c'è almeno uno o due al giorno che ce l'hanno con Seedorf, fate una petizione a Allegri oppure a chi o alla persona con cui Allegri eventualmente si consulta per fare la formazione, fategli un appello in maniera che vi liberi da questa presenza ingombrante. Agostino, provincia di Padova, buongiorno. Buongiorno segretario. Dica. Volevo solo entrare in merito alla partita dell'Inter di ieri sera. Io ho giocato a calcio tanti anni fa, qualcosa mi sembra di capire. Prendere tre gol in fotocopia da un giocatore che è terzino sinistro, che è dotato di un ottimo sinistro, sempre sullo stesso palo lungo, e la difesa va bene un po' bimescolata da Benitez, di prendere contromisure almeno dopo il secondo gol, mi sembra veramente, io sono un tifoso interista, mi sembra veramente un po' inquietante. Ecco, io dico che non bisogna presentarsi con questo atteggiamento in Coppa di Campioni, e soprattutto un giocatore del genere che fa solo quello, molto veloce, ma che fa solo quello, e c'è anche un po' di dormita del nostro buon Julio Cesar, che mi sa che un esame di coscienza e guardarsi allo specchio ieri sera credo che doveva farlo. Che ne dici? Ma Io dico che intanto non ho capito bene dove fosse Maicon in quelle prima, ben prima di Julio César, no? In quelle situazioni, semmai. Però poi non starei a farla così lunga, sinceramente, perché la partita era ampiamente finita sul 4-1. Il secondo gol ha generato il terzo, ma eravamo veramente a filo di sirena. L'Inter non aveva più centrocampo, nel senso che era rimasto Zanetti in mezzo al campo, però si era infortunato Stankovic, non c'era Cambiasso, non c'era Thiago Motta, cioè non c'erano i giocatori che potevano tenere il pallone, addormentare la partita, far passare il tempo, dopo che nel primo tempo l'Inter, non dico avesse risparmiato il Tottenham, ma certamente non ha infierito col piede sull'acceleratore a manetta, perché probabilmente anche lo stesso Cudicini prima ce lo stava dicendo, no? Potevano anche forse andare dietro, guarda, sicché alla fine è successa una cosa abbastanza strana, abbastanza estemporanea, su cui non costruirei un romanzo, costruirei delle riflessioni se fossi in Benitez, se mi pare che le abbia fatte e le stia ancora facendo, ma non un romanzo, perché il pericolo di non vincere la partita mi pare che non, onestamente, non ci sia stato. E dall'altra parte, in quella doppietta, perché era 4-1 all'89esimo, in quella doppietta degli ultimi due minuti c'è un tasso di casualità molto ma molto alto, con tutti i meriti per Bale che l'ha realizzata. Giorgio ha chiamato da Trento, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garantini, volevo rilacciarmi un po' quello che stava dicendo adesso riguardo all'Inter. L'altro giorno lei faceva una riflessione sull'età media Real Madrid e Milan. Ecco, credo che rilacciandomi a quello che stava dicendo, forse anche l'età media dell'Inter soprattutto nel secondo tempo, con Biagiani, Coutinho, Santon, insomma, forse non è stata messa adeguatamente in rilevanza. Grazie. Sì, probabilmente sì, nel senso che appunto, al contrario, no? c'era un po' tanta linea verde in campo ieri sera nel finale, ma soprattutto non c'erano i palleggiatori a metà campo, che vecchi o giovani che fossero, più o meno esperti, comunque erano quelli che servivano per far passare il tempo, soprattutto perché gli altri erano in 10 e quindi si trattava soltanto di farli girare un tantinello a vuoto. Ripeto, non starei a farla lunga per quella doppietta finale, e sentirei invece che cosa ci ha trovato Nicola Filippone per il 21 ottobre. Sembra ieri. 21 ottobre 1962, debutto con gol in Serie C per il 17enne Gigi Riva con la maglia del Legnano, che batte 3-0 l'Ivrea. Le prime uscite con la squadra lombarda del giovane Riva suscitano l'interesse di diverse squadre. Quella che ci crede di più è il Cagliari, che si assicurerà a partire dall'anno successivo le prestazioni del futuro rombo di tuono. Grazie ai gol di Riva, i sardi conquisteranno subito la prima promozione in Serie A e 6 anni più tardi uno storico scudetto. E questo era il calendario di oggi nella interpretazione di Nicola Filippone. Tantissimi messaggi, oggi c'è stato poco spazio per leggerli. Però questo di Luca di Arese lo trovo proprio carino. Sa per caso se Mazzarri si è già lamentato della partita di stasera? No, non lo so, effettivamente no. Vediamo domani, però questo davvero non è male. No, speriamo invece che a Napoli non accada niente di serio dal punto di vista dell'ordine pubblico, perché le notizie che vi ho dato prima su due brutti, pessimi episodi della notte scorsa sono oggettivamente inquietanti. Grazie a Franco Piantanida in relazione, a Fabio Cantadori in regia. Appuntamento a lunedì, per quanto mi riguarda, a domani con Carlo Genta. Adesso Giornale Radio. A tempo di sport.